30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Palazzi sventrati, strade e case sommerse da fango e detriti, ponti crollati, paesi isolati senza acqua, corrente elettrica e gas. A quattro giorni dall'alluvione di martedì, l'estremo ponente ligure e la Lunigiana sono ancora in emergenza, anche se la situazione migliora, in particolare sotto il punto di vista dei collegamenti. Le situazioni più critiche si registrano in Val di Vara, dove alcune frazioni del paese di Rocchetta sono ancora isolate. Ancora buonasera da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questo sabato dunque parliamo dell'evento che ha sconvolto questa settimana la Liguria, parte della Toscana, ma che in realtà è un fenomeno, è una parte ricorrente della storia d'Italia. Insomma, piove, l'Italia frana. Questa è la stagione in cui spesso questi eventi si manifestano, sono violenti, drammatici, mortali. Questa sera abbiamo con noi il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, il dottor Gianvito Graziano. Grazie di essere con noi, buonasera. Grazie, buonasera a voi. Allora, insomma, dottor Graziano, ogni volta sembra di essere al punto di partenza, che sia in Sicilia, in Piemonte, in Liguria, in queste ore in Toscana, appunto, piove, l'Italia frana, ma siamo davvero, come dire, in una situazione così banalmente di causa-effetto in questo paese? Beh sì, siamo in una situazione direi come banalmente drammatica, perché c'è questa situazione di causa-effetto, esiste un problema di territorio, di fragilità di insita nel nostro territorio italiano, per cui è chiaro che i 2/3 delle frane in Europa sono sul nostro territorio piuttosto che essere nel resto d'Europa, e questo è dovuto ovviamente alla nostra morfologia e alla nostra geologia. Ma esiste un altro problema di causa effetto che scatena questo causa effetto, che è l'incuria del nostro territorio, l'averlo saccheggiato o averlo a volte anche violentato in un sistema di regole. Mi riferisco soprattutto all'aver consumato molto suolo senza rendersi conto negli anni e nei decenni che questo avrebbe comunque provocato un diverso assetto. Oggi siamo davanti a dei modelli di campagne e di città che sono diversi rispetto a quelli che immaginavamo 20 anni fa o 50 anni fa. Modelli che, come vediamo, appunto, sono così fragili da reagire in maniera drammatica alla prima occasione. Dottor Graziano, una breve presentazione. Che cos'è il CNG? CNG è il Consiglio Nazionale dei Geologi, quindi è un organismo di rappresentanza della categoria che fa un po' da, come dire, papà gerarchico degli ordini sparsi sul territorio, che poi sono quelli che invece interagiscono appunto con le amministrazioni locali, interagiscono con i colleghi e quindi con le problematiche del territorio. È un ente che ovviamente si pone tra i vari obiettivi anche quello di essere, come dire, sussidiario, quindi questo ruolo che rivendichiamo come sussidiarietà dei professionisti, in un momento in cui tra l'altro tutto il sistema ordinistico viene spesso messo in discussione come, contrari alla liberalizzazione, contrari all'accesso alla professione o addirittura come freno all'economia. Noi crediamo di svolgere un ruolo totalmente contrario, siamo pronti a intervenire anche in forma volontaria in Liguria, come è successo altre volte invece in altre regioni, e soprattutto vogliamo in qualche modo stimolare l'opinione pubblica da una parte e il governo centrale dall'altra a interessarsi di questi fenomeni, tutti i rischi naturali, ovviamente, ecco, non solo quello idrogeologico. Presidente, quando si chiama un geologo, nella definizione, nella realtà delle cose, nella definizione di un piano regolatore, in un progetto, voi siete consultati? Guardi, ora sì, perché le leggi nazionali e anche quelle regionali oggi non consentono di operare sul territorio se non vi è una preventiva compatibilità geologica, quindi veniamo chiamati, ecco, però il problema è culturale. Quando dice ora sì, da quanto accade questo? Ma guardi, ormai possiamo dire che accade da un decennio in maniera più intensa, perché si sta cambiando pian piano anche come dire, la classe dirigente o gli altri professionisti di area tecnica sentono la necessità di avvalersi di una consulenza. Purtroppo però ancora oggi, ma succedeva molto di più prima, qualche decennio fa, la consulenza geologica era un mero elaborato che andava inserito nella pratica, quindi quasi un balzello che il committente doveva pagare. Riteniamo che non sia così, ma che sia proprio il primo elemento che consenta di definire se costruire in una data area e come costruire in una data area. Però anche in questa direzione stentiamo, i piani regolatori nostri sono vecchi, a volte non si sono avvalsi dello studio geologico che è rimasto dentro la carpetta, ma poi di fatto non è stato preso in considerazione nella giusta misura. Ecco, in che maniera gli eventi di questa settimana in Liguria lei le attribuisce a questa mancata cultura, a questo problema culturale appunto del non coinvolgere chi ha competenza del terreno? Nella misura in cui mi rendo conto ancora oggi, vedo ancora oggi delle immagini di alcune, e non parlo solamente dello spezzino, ma insomma gli approfondimenti che nelle radio, nelle televisioni vengono fatte a volte sul territorio, purtroppo poco rispetto a quello che sarebbe necessario, vedono costruzioni realizzate laddove veramente è incredibilmente impossibile pensare di dover costruire, e mi riferisco sempre agli argini dei fiumi o addirittura dentro i fiumi o in versanti che sono palesemente in frana, e non si è tenuto conto che studi fatti su quel territorio invece davano quell'aria instabile. A San Fratello, per citarle un caso che mi è vicino geograficamente in Sicilia, la zona in frana è una zona che era quella che ha avuto i problemi nello scorso inverno, era una zona dove già il geologo aveva indicato non potersi costruire. Cioè un paese spezzato, lo ricordiamo, quindi in quel caso c'era stata un'informazione precisa. C'era stata un'informazione precisa in una stesura precedente di piano regolatore che diceva che in quella zona era evidente, ma basta ancora guardare una normale carta topografica a curve di livello per rendersi conto che quell'area non era un'area idonea all'edificazione, ma è stata edificata. Dalla Sicilia, che lei ha citato in questo momento, al nord, l'Italia da questo punto di vista presenta una continuità di comportamenti sbagliati? In linea di massima sì, ma questo non soltanto per comportamenti sbagliati del singolo amministratore, perché non tutti gli amministratori hanno comportamenti sbagliati, ci sono degli amministratori che sono abbastanza illuminati e tengono al proprio territorio, ma purtroppo si confrontano con un sistema di regole che non gli consente di fare molto. Mi riferisco ad esempio al fatto che qualcuno ha detto che in qualche comune dello Spezzino, per fare un riferimento temporalmente vicino, qualche sindaco aveva messo in pratica tutte le misure possibili per mitigare il rischio idrogeologico, ma lavora entro un confine amministrativo. Quando si parla di dissesto non si può parlare di confini amministrativi, bisogna parlare di confini di bacini. Il bacino idrografico è quello che fa la differenza nelle scelte sul territorio. Insomma, se uno pulisce, diciamo, il suo anche se pulisce per bene il suo tratto di fiume, questo non gli impedisce, a meno che sia il primo tratto evidentemente, di ricevere i danni del bacino che lo circonda. È questo che sta dicendo? Bisogna... Praticamente sì. Se io tralasciando l'aspetto del dissesto, parlando di acque, se io tagliassi le acque a monte non farei più ricevere le acque a valle a chi ci sta a valle. È una situazione politica, ad esempio, tipica del Medio Oriente. È chiaro che bisogna lavorare di concerto tra, ecco, chi sta a valle e chi sta a monte. Assolutamente, il concerto dunque, il coordinamento. Non dimentichiamo che l'Italia è un paese che già 2 anni fa affronta un progetto, un finanziamento, il cosiddetto i miliardi del FAS. 2 anni fa si, di fronte a un ennesimo fatto drammatico, si avvia un piano straordinario da 2,5 miliardi, interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico e le alluvioni. Cosa ne è stato nella sua esperienza di quel piano? Ma guardi, fermo restando che purtroppo in Italia si ha sempre il sospetto che quei fondi poi di fatto non sono mai arrivati, o forse non sono mai stati messi, collocati negli appositi capitoli di bilancio, ma questa ovviamente è soltanto una considerazione generale, perché il dubbio, le devo dire, a volte viene. Ma al di là di questo, di sicuro con le ultime manovre economiche questi fondi sono stati comunque tagliati, creando, diciamo, provocando anche la rabbia del ministro Prestigiacomo, che ha in qualche modo rivendicato una necessità di intervenire sul territorio. Questo è preoccupante proprio perché evidentemente non si capisce che bisogna investire in territorio. Ieri il collega Antonielli del Consiglio Nazionale Ligure ha fatto un preciso paragone. Roosevelt negli anni 30, in un momento di grande crisi economica agli Stati Uniti, investì nei fiumi, investì nella mitigazione del rischio, diremmo oggi con termini più moderni, e creò possibilità di sviluppo, in qualche modo fece ripartire la macchina economica. Bene, in Italia avremmo molto bisogno di fare ripartire questa macchina, ma tagliamo i fondi del territorio, che è l'unica vera infrastruttura del nostro paese. 30 minuti in cronaca. Investire dunque sul territorio in un tempo di difficoltà. L'idea di pulire, intervenire su un bosco per, diciamo, liberare il percorso di un torrente che poi diventa un insieme di torrenti, evidentemente all'interno di un bacino, diventa un fiume, diventa magari il Magra, che abbiamo visto ancora questa settimana devastare l'ultimo ponte prima del tuffo nel mare. Vuol dire investire in maniera capillare. Gianvito Graziano, lo ricordo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, eravamo arrivati a questo punto. Insomma, sono tanti investimenti diffusi. Se restiamo nell'esempio che evidentemente su cui ricorriamo in questa settimana, la Val di Vara, Borghetto è un piccolo comune che, come ci hanno raccontato gli amministratori locali, è anche il punto di confluenza di tre torrenti. La descrizione degli eventi è stata impressionante, nel senso che ha piovuto per circa 2 ore in maniera violenta, ma non più di 2 ore, e poi il disastro, l'impatto che ha di fatto distrutto il paese di Borghetto, è durato non più di una quindicina di minuti. Investire in questi piccoli comuni è complicato, nel senso che probabilmente non dà notorietà, perché Borghetto, oggi ne parliamo, ma è ovvio che, come tanti piccoli comuni italiani, sono per lo più nel grande cono d'ombra. Eppure è questa la chiave, visto da un punto di vista di chi si occupa della tutela del territorio. Certamente sì, quello che lei dice coglie anche un altro dei significati che spesso viene dato alla cultura della prevenzione, all'assenza di cultura di prevenzione, quando appunto si dice che appunto realizzare, mitigare il rischio idrogeologico non dà particolarmente lustro a un amministratore locale, che invece realizzando degli impianti sportivi o una villetta probabilmente in qualche modo dà un senso di concretezza ai propri cittadini. Però sta lì proprio l'assenza di cultura geologica, idrogeologica. Noi dobbiamo cambiare, insomma, in qualche modo, visto che oggi i cittadini sentono il territorio come una consapevolezza anche dei rischi che gravano su di esso, cioè hanno cominciato a percepire che non stiamo tranquilli da nessuna parte, probabilmente anche questo aspetto, chiamiamolo politico, mi perdoni, di bassa politica, dovrebbe essere superato. Oggi bisogna investire moltissimo, perché quella io credo che sia una chiave di volta anche per lo sviluppo immediato, economico e non soltanto del nostro paese. La manutenzione del territorio è compatibile con l'abbandono, con il trasferimento nei centri urbani? Ancora, la Val di Vara è un buon esempio da questo punto di vista, è un paradiso tra il mare e le montagne, ma per lo più è un paradiso per il fine settimana per chi ci arriva. Beh sì, guardi, le devo dire, alcune aree protette italiane sono comunque aree che hanno avuto, proprio per il regime di vincolo, hanno avuto più attenzione da parte un po' di tutti, no? degli stessi cittadini, che hanno sentito quell'area come bene per la loro economia, per lo sviluppo, e chiaramente anche dalla classe politica. In quelle aree, nei nostri parchi, è più difficile che qualcosa avvenga, perché appunto il regime di vincolo in qualche modo ha imposto anche una maggiore sensibilità. E questo ha dimostrato evidentemente che il non disboscare, il non poter disboscare produce effetti positivi contro il rischio idrogeologico. E allora se noi riusciremo a concepire questo concetto che più mitighiamo, più le nostre aree rimangono belle, interessanti, il nostro paesaggio che in qualche modo stiamo veramente consumando è fonte anch'essa di economia, probabilmente appunto riusciremo a investire sotto un profilo non squisitamente economico ma anche culturale in difesa del suolo. Dottor Graziano, c'è qualche esempio positivo? Perché altrimenti la sensazione è sempre quella di dire appunto un paese che si sbriciola letteralmente sotto questa pioggia, ma insomma l'Italia è meravigliosa nella sua complessità, ma spero non sia tutto uguale come quanto abbiamo visto in questi giorni. Ma guardi, io sarei ben felice di poter portare degli esempi positivi e le ho appena citato quello delle aree protette, certo. I nostri parchi e le riserve, perché comunque sono delle aree paesaggisticamente, naturalisticamente estremamente interessanti e dove insomma statisticamente è più difficile che avvenga qualcosa di clamoroso. Anche perché c'è meno popolazione, esatto, insomma. Anche almeno... perché c'è meno popolazione, non si sono urbanizzato. Il problema invece sta nel fatto che nel 12% del territorio italiano ha grande pericolosità geologica, noi abbiamo costruito l'84% dei comuni. Allora le devo dire, io vorrei essere ottimista, ma sarò ottimista solo quando il governo italiano, perché guardi è da lì che deve partire l'iniziativa, io non voglio difendere gli amministratori locali che a volte non sono per nulla illuminati, ma devo dire non possiamo fare tutta l'erba un fascio, a volte gli amministratori veramente non hanno cosa fare, non ci sono modelli comportamentali per i cittadini, non ci sono modelli strutturali per gli amministratori locali. Allora, fin quando il governo italiano non metterà da parte un piccolo tesoretto per cominciare realmente a dare delle priorità ai problemi di dissesto, mettendo in sicurezza, scelgano con i loro centri di ricerca, con i loro dipartimenti, con i loro ministeri da dove iniziare, ma fin quando non si comincia a fare qualcosa di strutturale, in regime ordinario, però non straordinario o sull'onda dell'emozione, io devo dire ho difficoltà a darle degli esempi virtuosi. Gli esempi virtuosi sono a livello locale ma servono purtroppo a poco. Inutile girarci intorno, scrive Giorgio Santilli sul Sole 24 Ore, a portarsi via il piano straordinario da 2,5 miliardi per gli interventi più urgenti contro il dissesto idrogeologico e le alluvioni, messo a punto dal Ministero per l'Ambiente e della Protezione Civile dopo anni di inerzie, lentezze e incertezze politiche, è stata ancora una volta la frana del FAS, il fondo aree sottoutilizzate. Il cuore del piano, cofinanziato dalle regioni, era un finanziamento da 1 miliardo deciso dal CIPE 2 anni fa, poi tagliato da Giulio Tremonti, prima 800 milioni, poi a 500 e infine portato via dall'ultimo taglio di 6,5 miliardi inserito nella legge di stabilità. Quel che più conta, come per tante delle risorse promesse con il FAS dal CIPE e da Tremonti, è che a destinazione non è arrivato neanche un euro. Insomma, Graziano, quando lei parla di problema culturale, forse qui ne abbiamo un esempio clamoroso, nel senso, si ritiene una spesa a cui possiamo rinunciare, una spesa che può essere procrastinata. In realtà lo vediamo, i dati, poi i costi del dissesto idrogeologico in Italia sono formidabili. I costi del dissesto sono veramente decuplicati, cioè il costo stimato degli interventi in emergenza è di come 5-10 volte quelli necessari per intervenire in prevenzione. È un concetto ormai ripetuto da anni, ma non lo ripetiamo soltanto noi geologi, lo ripetono le associazioni ambientaliste, altri ordini professionali, voi giornalisti, l'opinione pubblica se ne è resa conto, però non riesco a capire com'è possibile dover tagliare sempre e sempre su quei capitoli di bilancio. È quello il motivo per cui non riesco in questo momento a essere ottimista. Non esiste in questo momento in Italia, almeno da parte del governo italiano, se non qualche iniziativa di alcuni gruppi parlamentari, trasversalmente parlando, non c'è un disegno, non c'è un iter individuato per arrivare ad esempio a una legge di governo del territorio da tempo invocata, ma non c'è neanche una che parti, che parta dall'urbanistica, che è una legge nazionale del 1942. Allora, davanti a questa inerzia e davanti a questa assenza totale di attività, anche di tipo politico, di iniziativa politica, chiaramente non c'è da star tranquilli. Grazie a Gianvito Graziano, lo ricordo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, per essere stato con noi questa sera. Dunque, il quadro non è confortante, noi continuiamo ovviamente a fare la nostra parte. Ancora questa mattina avete sentito il reportage realizzato da Raffaella Calandra a Monterosso. Insomma, continuiamo a fare la nostra parte nel racconto, come sono certo i geologi faranno la loro nel denunciare, nell'informare, ma il cuore e il quadro della situazione sta ovviamente in altri luoghi, in altri palazzi. Grazie a Gianvito Graziano di essere stato con noi, buonasera. Grazie a voi, buonasera. Dunque, noi siamo arrivati alla conclusione. Vi ricordo, a proposito anche di questi temi di questa settimana, sul sito di Radio 24, www.radio24.it, trovate una sezione dedicata alle voci. Ci sono i fatti, ci sono le voci appunto degli amministratori, di chi ha lavorato per soccorrere, cercare le vittime. Ricordo, i dispersi sono ancora numerosi, insomma, per intervenire poi quando il disastro, quando il dramma è esploso. Noi siamo arrivati alla conclusione, non mi resta che ringraziare anche Peter Bescapè in regia. L'appuntamento con 30 minuti in cronaca, come sempre, per la prossima settimana alle 19:30. Un buon fine settimana a tutti.